La malattia è una sfida che può diventare cammino di consapevolezza e che passa attraverso l'accettazione di ciò che non possiamo o che possiamo cambiare dentro e fuori di noi. Un tempo pensavo di guarire con le mie azioni e le mie medicine e cercavo la malattia per etichettarla. Ora ho coscienza che l'uomo e la malattia sono di una meravigliosa complessità e quindi la terapia non può essere riduttiva e semplicistica, ma deve invece aiutare la persona che presenta i sintomi patologici a trovare in sé la forza di guarigione, in quanto ogni guarigione è sempre un'autoguarigione. Noi terapisti possiamo soltanto essere dei facilitatori di questo processo. Il mio metodo non è quindi una tecnica, una serie di esercizi, ma fondamentalmente la proposta di un percorso, da persona a persona, dal terapista al paziente, così come è stata un percorso la mia vita. Gradino dopo gradino, la visione del perché una persona soffre si è ampliata e articolata, partendo dalle cause meccaniche e fisiche, per poi comprendere quelle psichiche, emotive e infine, ma non ultime, quelle spirituali.